ma un rampollo uscirà dal tronco di Jesse ed un virgulto spunterà dalle sue radici. Riposerà sopra di lui lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di discernimento, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Troverà compiacenza nel timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze, né renderà sentenza per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e con equità renderà sentenze in favore dei poveri del paese. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca e farà morire l'empio con il soffio delle sue labbra. La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà insieme all'agnello e la pantera giacerà insieme con il capretto. Il vitello ed il leone pascoleranno insieme. Un piccolo bambino li guiderà. La vacca e l'orso pascoleranno. I loro piccoli giaceranno insieme. Il leone, come il bue, si nutrirà di paglia. Il lattante si divertirà sulla buca dell'aspide ed il bambino porrà la mano nel covo della vipera. Non si commetterà il male né guasto alcuno su tutto il mio santo monte, poiché il paese è pieno della conoscenza del Signore, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno la radice di Jesse si ergerà a stendardo dei popoli. Le nazioni accorreranno ad essa ed il luogo della sua dimora sarà glorioso. In quel giorno il Signore stenderà di nuovo la sua mano per riscattare il resto del suo popolo, superstite dall'Assiria e dall'Egitto, da Patros, dall'Etiopia, da Elama, da Sennar, da Amat e dalle isole del mare. Egli alzerà uno stendardo verso le genti e raccoglierà i dispersi di Israele. Radunerà i disseminati di Giuda dai quattro angoli della terra. La gelosia di Efraim sarà rimossa e gli avversari di Giuda saranno annientati. Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non sarà più ostile ad Efraim, ma voleranno addosso ai filistei ad occidente. Saccheggeranno insieme i figli dell'Oriente. Edom e Moab saranno loro possesso ed i figli di Ammon saranno loro sudditi. Il Signore seccherà la lingua del mare d'Egitto ed agiterà la sua mano sul fiume con la potenza del suo spirito e lo dividerà in sette bracci, rendendo possibile la traversata con i sandali. E vi sarà una strada per il resto del suo popolo superstite della Siria, come ce ne fu una per Israele, quando uscì dalla terra d'Egitto.